e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, sembra male solo a me. Buongiorno Deborah. Buon inizio settimana a tutti. E buon inizio settimana alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Questo è un brano perfetto per introdurre il tema di oggi, la cefalea, in modo particolare una forma che proprio a primavera rischia di riacutizzarsi, la cefalea a grappolo, un vero e proprio incubo per più di 60.000 italiani. Per questa ragione, tra tutte le date possibili del calendario, è stata scelta quella di oggi, il 21 marzo, a ridosso dell'equinozio di primavera, per organizzare la giornata di sensibilizzazione. La Società Italiana per lo Studio delle Cefalee ha lanciato una bella iniziativa, la giornata della cefalea a grappolo, di cui vi parleremo, ma non ci fermeremo qui. Abbiamo un programma, come si dice, molto ricco e molto lavoro da fare, perché esistono, lo sapete bene, ne abbiamo parlato in diverse occasioni, oltre 200 tipi di mal di testa. Denominatore comune, soffrono la primavera. Tra i mesi tra marzo e giugno le cefalee, anche se vogliamo complici gli sbalzi termici, l'alternanza fra sole e piogge, i cambiamenti del ritmo sonno-veglia, tra poco si cambierà l'ora, sì, è vero, tendono ad accentuarsi. Allora 800 24 00 24 per chi a primavera perde la testa. Ritrovatela quindi con noi e i nostri esperti. Allora, un grande mal di testa ce lo fa venire sempre il nostro rapporto con il mondo del fisco. Oggi ci soffermiamo per la parte di denari, in particolare sul tema delle indennità di accompagnamento erogate ai disabili e alle loro famiglie. Perché andiamo su questo argomento? Contrariamente a quanto aveva stabilito il governo fra un mare di comprensibili polemiche, queste indennità non dovranno essere considerate reddito per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, l'ISEE. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con ben tre sentenze depositate nei giorni scorsi, che hanno confermato quanto in precedenza aveva deciso anche il TAR del Lazio. Una battaglia vinta dalle associazioni delle famiglie con figli disabili, che noi oggi ripercorriamo nell'ambito dell'iniziativa di Radio 24, anche noi disabili. Intanto voi cominciate a raccontarci all'800 24 0024, se questo ricalcolo ISEE vi aveva ingiustamente penalizzato, cosa è successo, come avete reagito, cosa avete fatto. A tra poco. Sopra il giorno di dolore. Sebbene sia difficile fare una classifica di un sintomo soggettivo come il dolore, è opinione comune che si tratti di uno dei dolori più intensi che l'uomo possa provare. In Italia, a farci i conti, sono oltre 60.000 persone. Parliamo oggi della cefalea a grappolo, di cui si celebra la giornata. In linea con noi il professor Francesco Pierelli, ordinario di neurologia alla Sapienza Università di Roma e presidente eletto della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professore, è molto dolorosa, invalidante, ma poco conosciuta, è un po' la cenerentola delle forme di cefalea, risulta quasi completamente sconosciuta al grande pubblico, ma talvolta anche non viene presa nella dovuta considerazione dagli stessi medici. Studi condotti in tutti i paesi occidentali hanno rilevato che di media ci vogliono 6 anni perché un paziente affetto da cefalea a grappolo riceva una diagnosi corretta e quindi un trattamento appropriato. Immagino che siano queste le ragioni che hanno spinto la SISC a organizzare una giornata di sensibilizzazione, professor Pierelli. Sì, è esattamente questo il problema, perché non c'è solo l'aspetto medico, diagnostico, terapeutico, ma anche quello proprio formativo riguardo alla popolazione. Questo penso sia uno degli obiettivi che una società scientifica deve perseguire. Quindi ci siamo organizzati con le varie sezioni regionali e in sostanza abbiamo dedicato questi giorni intorno all'equinozio a questo tema. Quindi ci sono dei centri che hanno fatto proprio delle attività perfettamente formative e informative riguardo ai pazienti, e altri centri, parliamo di una diffusione molto vasta sul territorio nazionale, si va da centri cefalee che stanno a Bergamo fino a Siracusa, includendo praticamente quasi tutte le altre regioni, e altri centri che hanno aperto i loro ambulatori verso i pazienti per accoglierli, visitarli e anche spiegare le dimensioni del problema, perché questo è un aspetto molto importante, è necessario capire di che cosa si tratta e come va affrontata questa patologia. Esatto, esattamente. Per il centri che aderiscono a questa iniziativa, il sito della SISC a disposizione, sì. Lo ricordiamo, professore? Sì, esattamente, sisc.it e ci sono tutte le informazioni. C'è proprio una pagina dedicata a questo evento e chiunque può controllare la sede, l'orario, la disponibilità e quindi si può connettere con queste persone, questi medici sono esperti di questo argomento. 800 24 00 24, il nome cefalea grappolo ci dà alcune informazioni su questo tipo di cefalea. Si chiama così perché colpisce con attacchi raggruppati, proprio come un grappolo, alternati a lunghi periodi di calma. Gli attacchi si concentrano in quelli che vengono definiti periodi attivi e si manifestano solitamente intorno a cambi stagionali. Insomma, la data, il 21 marzo, non è stata scelta a caso, professor Pirelli. Esattamente, sì, proprio perché nella maggior parte dei casi, perché la forma cosiddetta episodica rappresenta la stragrande maggioranza dei casi, circa il 90%, il paziente è perfettamente normale nel resto dell'anno, non ha alcun problema di cefalea e poi improvvisamente comincia ad avere, in genere nel cambio di stagione primaverile oppure autunnale, un primo episodio seguito poi dagli altri che si raggruppano e possono arrivare anche a 8 attacchi nell'arco delle 24 ore. E ogni singolo attacco può durare fino a 180 minuti e sono veramente attacchi insostenibili. Il paziente, a differenza dell'emicranico, preferisce distendersi a letto, riposarsi, stare lontano dalla luce, dai rumori. Il paziente con attacco di cefalea a grappolo deve stare in piedi, cammina, è agitatissimo finché non si conclude l'attacco. Ma se i sintomi, se i segnali sono così chiari, professor Pirelli, come mai tanto ritardo nella diagnosi? Ma guardi, io ho un'opinione personale sull'argomento. Credo che si paghi lo scotto della popolarità del termine nevralgia del trigemino, perché molti di questi pazienti che poi vediamo essere affetti da cefalea a grappolo in realtà venivano diagnosticati come nevralgia del trigemino, che è una forma completamente diversa, con delle caratteristiche cliniche proprio distintive, molto precise, e che richiede un trattamento completamente diverso, che non è efficace invece nei pazienti con cefalea a grappolo. Questo può essere un primo problema. Poi c'è l'aspetto cronologico, cioè i pazienti hanno una serie di attacchi, poi stanno bene per mesi e mesi, tendono a voler dimenticare questo problema. E il problema passa di testa, di mente in questo passa caso. Passa di testa, è proprio il caso di dirlo, e però poi puntualmente torna. Si ripresenta. Sì. Allora, noi restiamo insieme, voi continuate a scriverci o a chiamare per raccontare che cosa c'è sotto il cappello. Questo è un riferimento ad una campagna europea di sensibilizzazione sul mal di testa, What Under the Hat. Volete scoprire cosa c'è sotto il cappello e quindi un po' le caratteristiche del vostro dolore e soprattutto se volete scriverci e raccontarci la vostra esperienza di vita vissuta a braccetto col mal di testa o di farvi portavoce, perché no, di quella di un parente, di un amico che non ha ancora trovato la forza di farlo in prima persona e quindi di affrontare il problema, perché le terapie ci sono. 800 24 00 24 è già pronto anche il nostro esperto di cuore e denari, il professor Piero Barbanti. Professore, buongiorno. Buongiorno, bentrovati, buongiorno. Neurologo, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisanna di Roma, con cui parleremo non solo di cefalea a grappolo, ma di emicrania, di cefalea tensiva da stress, da attività fisica, da attività sessuale, da tosse e, come si dice, chi più ne ha più ne metta. Professor Barbanti, se l'emicrania è la regina della cefalea, quella a grappolo è la matrigna, ma di quelle cattive, come quella di Biancaneve. Sì, l'emicrania è vero, è una buona definizione. La cefalea a grappolo, sentivo prima il professor Pirelli che sintetizzava molto bene questo aspetto, è un mal di testa in cui il paziente si comporta come se avesse mal di denti, cioè si muove su e giù senza requie, mentre nessun altro cefalalgico fa questo. In genere i cefalalgici si mettono quieti, buoni, non disturbati, il povero sofferente. Il soggetto con cefalea a grappolo conduce invece una giornata in quei minuti completamente diversa. Ma insomma sarebbe interessante sentire dagli ascoltatori le loro esperienze su mal di testa anche meno drammatici in acuto, perché meno violenti, ma più bizzarri, che magari li lasciano preoccupati, perché ecco, questo è un fattore, questa è un'esperienza che spesso il paziente lamenta, riferisce alla seconda o alla terza visita, la paura di avere qualcosa che più delle volte non c'è. Allora, mi scoppia la testa, aiuto all'800240024. Saluto e ringrazio il professor Pierelli, ordinario di neurologia alla Sapienza Università di Roma, presidente della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, che ha organizzato questa iniziativa per la cefalea grappolo. Grazie professor Pierelli. Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie, noi ci teniamo stretto il professor Barbanti, che risponderà naturalmente alle vostre domande all'800240024. Noi andiamo a fare un giretto. Chissà se c'è anche il mal di testa da guida? Ma penso... Aspetta che ho spento il microfono. Penso proprio di sì, penso che la tensione alla guida, soprattutto tante ore insomma davanti al volante, è un po' di... Vi scoppia la testa? Chiamateci. Cuore e denari. Odio i lunedì. Siamo tornati insieme. Il lunedì è un giorno molto delicato, non solo per il nostro umore, ma anche per la nostra testa. Secondo una ricerca, è alle 14 del lunedì che arriva l'emicrania. Voi avete appuntamenti fissi con la cefalea? Arriva a scadenze regolari o vi sorprende all'improvviso? Volete parlarne con noi? E in linea abbiamo il professor Piero Barbanti, che è tornato a Cuore Denari in occasione della giornata della cefalea grappolo, che si celebra proprio oggi, perché è proprio in primavera che gli attacchi diventano più forti e ravvicinati. Professor Barbanti, le forme di cefalea sono tutte un po' sensibili alla primavera. Diciamo che tra il mal di testa e questa stagione non c'è un gran feeling. Oltre a quella a grappolo, quali sono le forme che rischiano di più? Beh, direi che l'emicrania tende stranamente a peggiorare, ma questo perché? Perché si concentrano alcuni fattori un po' strani. Per esempio, l'aumento delle ore di luce, che è senza dubbio migliorativo per l'umore. Sappiamo per esempio che negli emicranici con aura, luci particolarmente forti, ed il sole incomincia ad essere un pochino più verticale, meno all'orizzonte, può scatenare l'attacco. Incominciamo a fare dei viaggi, benissimo, ma i viaggi magari quelli pasquali e durante 4 giorni vogliamo rifarci di un intero inverno di stress, la concentrazione pur nel divertimento di eventi rischia di essere pagata dall'emicranico con una bella attacco che parte. Oppure, visto che la primavera sì, è bella come stagione, ma è agli antipodi rispetto all'ultima vera vacanza, che è quella estiva, ecco che la cefalea di tipo tensivo, che invece ha nello stress il suo generatore principale, può far capolino. Ovviamente è il cambio l'elemento che attiva il problema, certo. Non certo la stagione in sé. In generale il cefalalgico è un soggetto che patisce le modificazioni brusche, specie se è emicranico. Professore, voglio leggerle il messaggio su WhatsApp di Alessandro, che ci scrive: se guido posso fare ore e ore di guida senza problemi, mentre se sono passeggero mi scoppia la testa dopo pochi chilometri. Questa è una cosa molto nota. I soggetti emicranici, sicuramente emicranico sarà il nostro ascoltatore, sono soggetti che hanno una labilità del circuito della dopamina, che si attiva con grande facilità con le kinetopatie, cioè con il mal d'auto. Ovvio che l'essere trasportati, specie ancora se si sta sui sedili posteriori, è un elemento scatenante. In quel caso il cervello si ricorda subito di essere anche emicranico, quindi coglie l'occasione per far festa due volte, purtroppo in negativo. Un consiglio per il nostro ascoltatore: utilizzi, quando è trasportato, lo zenzero. Non è una medicina alternativa in senso stretto. Lo zenzero è un potente agente antichinetosico e può dare dei vantaggi anche nelle primissime fasi dell'emicrania. Parleremo anche del momento in cui è bene occuparsi del proprio mal di testa, del dolore, se spegnerlo, in che modo, con un farmaco, con un rimedio naturale. C'è una finestra oltre la quale di tempo che è bene rispettare. 800 24 00 24, continuate a chiamarci e a scriverci. Voglio leggere un altro messaggio interessante su WhatsApp. Dopo un'intensa giornata lavorativa mi sono sfogata in una lunga passeggiata, tornata a casa, ho guardato un film sdraiata sul divano, un classico. Nel rialzarmi ho avuto una fitta fortissima alla testa e mi è rimasto un forte mal di testa, non riuscivo a vedere bene, era come entrambi gli occhi vedessero due cose diverse. C'è da preoccuparsi? Allora, il messaggio di WhatsApp della nostra ascoltatrice o ascoltatore, non si firma, ci permette di parlare del mal di testa che ha degli altri sintomi, anche sintomi visivi e sintomi motori. Cioè non è solo la testa a farci male, ma notiamo vediamo che altre parti del nostro corpo e altre funzioni vengono in qualche modo alterate. Professor Barbanti. Beh, intanto per rispondere alla persona che ha mandato WhatsApp, direi che se la sua è una storia di cefalalgico e se l'episodio è stato così autolimitante, sì, non mi allerterei. Forse ha più rapporto il cambio di ritmo della giornata con relax televisivo dopo una giornata intensa con successiva passeggiata nell'insorgenza del dolore. Però mi dà l'occasione di dire, di convocare un po' gli ascoltatori a chiamare e a riflettere se durante l'attacco, per esempio, hanno anche una lacrima sul viso, cioè se un occhio lacrima, o se quando hanno dolore, più che dolore, si sentono come essere in barca, oppure appunto i soggetti con emicrania con aura, se prima dell'attacco hanno sintomi che per loro sono molto allarmanti, per noi fortunatamente molto meno, come la scomparsa di parte del campo visivo, oppure la formicolio di una mano o di metà del volto, e anche la possibile scomparsa della parola che tende poi a ritornare. Quindi, e infine sì, una convocazione anche per quelli che prendono gli analgesici come fossero caramelle. 800 24 00 24, ce n'è per tutti i gusti. Daniela da Firenze, prima delle informazioni del nostro GR. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo fare la domanda. Tutto quello che ha detto il professore è vero. Anch'io sono stata curata per il trigemino per 2 anni e poi invece la cefalea a grappolo. Volevo solo sapere, l'unica differenza è che a me mi ci sta tanti mesi. Quanto ora un pochino meno perché sono in menopausa, ma anche quest'anno ora mi è iniziato il 25 di dicembre e mi è finito il 1 di marzo. Volevo sapere, è una cosa normale, lo deve fare? Allora, grazie Daniela, la risposta del professor Barbanti subito dopo le informazioni sul traffico. Attenzione ai ai sintomi con cui si accompagna il vostro mal di testa, tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Se per amore io perdo la testa, la lascio cadere dal collo perché ho le mal di testa, se lo conosci lo curi, potremmo intitolare così questa ultima parte della parte di cuore denari di oggi, esatto. Un bisticcio di parole in cui, anche se il tema di denari è anche molto cuore, è vero. In cui cercheremo di darvi dei consigli mirati per affrontare la vostra cefalea. Abbiamo l'imbarazzo della scelta, abbiamo più di 200 tipi di mal di testa, però ognuno con il proprio mal di testa tende a fare di testa propria. Risultato, il mal di testa diventa compagno di vita, tanto che il 4% della popolazione mondiale, pensate, soffre di mal di testa tutti i giorni. Riguardo a come ci comportiamo con il dolore, c'è chi resiste perché non vuole prendere farmaci, chi alla prima avvisaglia si cala la pastiglietta, chi si affida ai rimedi naturali, chi alla tecnologia, chi dà la colpa alla cervicale, alla postura, alla vista. Voi che fate? Soprattutto raccontateci al nostro numero verde a quali sintomi si accompagna il dolore. In linea con noi abbiamo sempre il professor Piero Barbanti, una garanzia, primario neurologo al San Raffaele Pisana di Roma, pronto a darci una mano. Professore, abbiamo sentito prima del nostro GM, adesso finalmente non lo perché ho detto 2 o 3 volte le informazioni sul traffico, abbiamo ascoltato la testimonianza di Daniela che lamentava di un mal di testa che durava mesi, da dicembre fino ad oggi praticamente. Voleva delle indicazioni, anche lei lamentava il fatto che per arrivare, no, alla diagnosi, alla terapia corretta, avesse dovuto aspettare molto tempo. Beh, intanto a sentire le parole della signora Daniela verrebbe da pensare che di cefalea a grappolo si possa trattare. Innanzitutto la cefalea a grappolo se ne infischia della menopausa. Daniela da Firenze diceva, ma è possibile, io anche in menopausa ho questi problemi. Il secondo aspetto è come definire la cefalea a grappolo per un paziente in maniera tale che la riconosca. È facile, è pensare a un vulcano che attraversa delle fasi di attività durante le quali erutta quotidianamente, e fasi di quiescenza durante le quali non c'è nemmeno una eruzione. Questo consente di differenziare nettamente l'emicrania dalla cefalea grappolo, perché l'emicranico non attraverserà mai mesi e mesi senza neanche un attacco. Sappia Daniela che ai primi sintomi di eruzione di questo vulcano ipotalamico che è la cefalea grappolo, se comincia una profilassi corretta, abbrevia nettamente questo periodo negativo e sta meglio. Andiamo alle domande dei nostri ascoltatori, da cui naturalmente possiamo prendere spunto per dare delle informazioni a chi ci sta ascoltando. Patrizia da Udine, poi andiamo da Donato che abita invece nella provincia di Bari. Patrizia, buongiorno, benvenuta. Grazie a tutti, al dottore e a voi. Grazie Patrizia, veniamo alla domanda. La nostra emicrania è una cosa familiare, diciamo. Però la cosa che più mi disturba è vedere una ragazzina magari di 12 anni, ha cominciato a 4 anni con queste grandi emicranie. Sì. Si è venuto un professore dal Burlo Garofalo, l'ha sentita per sì, quindi mesi, il problema è anche lei ci porta all'esperienza di una bambina, una ragazzina di 12 anni che soffre già di mal di testa, come se fosse un marchio di famiglia, Patrizia? Allergia, gli aveva dato un cemerito. Va bene, grazie Patrizia. Sentiamo il professor Barbanti, a cui leggo anche un messaggio di un nostro ascoltatore, proprio che riguarda proprio i bambini. Mia figlia, quasi 6 anni, reagisce alle sgridate dicendo di avere mal di testa. Succede da poco tempo e pensava ad una tipica scusa infantile, ma ora la vostra trasmissione mi ha messo il dubbio che possa essere vero. Come posso accertarmene? Allora, il mal di testa non risparmia neanche i bambini e neppure gli adolescenti. No, c'è circa un 8-10% di bambini già emicranici. L'emicrania vuol dire ereditare un cervello più eccitabile che converte in dolore degli stimoli non dolorosi. Attenzione però che se una ragazzina ai 12-14 anni incomincia ad avere mal di testa anche per la variabilità ormonale che si introduce, ricordiamoci che un bambino non è un piccolo adulto, deve dormire almeno 9 ore per notte, non deve intossicarsi con i videogiochi o peggio ancora con i telefonini che sono incontrollabili, e questo è un messaggio che noi diciamo a pieni polmoni sempre. Genitori, fate i genitori e nel bene dei figli levate dalle mani a una certa ora questi dispositivi e controllate che a 12, 13, 6 anni, 14 anni dormano, mangino con regolarità. Si otterranno degli effetti che nemmeno si potevano sperare prima. La bambina di 6 anni che ha mal di testa con le sgridate, qua solo il tempo lo può dire. Certamente è un po' singolare che ogni volta che la figlia venga mal di testa, potrebbe essere anche una scusa. Ma magari è il mal di testa, professor Barbanti, da voce magari proprio troppo, no? Dal tono della voce, da tono da sgridata. È vero che ci sono alcuni mal di testa stimolati dalle forti stimolazioni sensoriali. Una per tutte è quello dei profumi quando si entra nelle profumerie. O la luce nelle giornate di tramontana molto nitida, certamente odore, ma deve essere proprio una sgridata molto forte. Spero per la mamma che non sia così. Andiamo a Donato dalla provincia di Bari. Donato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo fare una domanda al professore. Io ho sofferto di cefalea a grappolo per diversi anni, con dei dolori allucinanti dalla parte destra dell'occhio, con fortissime lacrimazioni, tanto che nel corso del mio lavoro ero costretto certe volte a fermarmi per strada per questi dolori molto molto forti. Ero costretto a stare al buio, quindi a non vedere esattamente la luce, e prevalentemente io lo chiamo un mal di testa un po' intelligente, perché mi prendeva la mattina e quindi io riuscivo a contrastarlo con dei medicinali che agivano subito, sublinguali che agivano subito sul momento. Successivamente venga la domanda, Donato, scusi, sì, perché sennò non riusciamo a... Chiedo scusa. Niente, allora la mia domanda è questa. Adesso da un paio di anni io non soffro più di cefalea a grappolo, però mio figlio, 12 anni, inizia ultimamente a dirmi che ha dei forti mal di testa. Grazie Donato, quindi che cosa si può fare? Donato ci descrive una cefalea a grappolo che non corrisponde alla descrizione che avete dato a lei e il professor Pirelli, o sbaglio? Ma insomma, Nicoletta, lei è diventata medico, perché è quello che stavo per dire. Donato, io avrei qualche dubbio che di cefalea a grappolo si tratti, perché la cefalea a grappolo è raramente ereditaria, invece l'emicrania lo è frequentemente, quindi il figlio potrebbe averlo, perché il soggetto con cefalea a grappolo non si mette mai al buio, è un'anima in pena, sembra un soggetto, dicevo prima, col mal di denti che va su e giù. Un po' tarantolato, diciamo. Po' tarantolato, la Taranta è una, sempre la zona lì, pugliese, un po' più giù. Quindi credo che potesse essere una di quelle forme emicraniche in cui c'è anche l'acrimazione dell'occhio. Questa è una chicca per studiosi, ma insomma vuol dire ben poco. Direi che il figliolo è forse un cefalalgico emicranico come il papà. Professor Barbanti, in un minuto, allora, mi scoppia la testa, che faccio? Allora, mi scoppia la testa, cosa faccio? Prima lo scrivo, secondo, dopo un mese guardo quello che ho scritto e lo porto al mio medico. Guardo quello che ho scritto e guardo gli analgetici che ho preso e li confesso tutti al mio medico. Il medico deve essere sollecitato, e in genere lo sono tutti molto bravi, a risolvere il mio problema. Se il medico non è esattamente in sintonia, bene, cerco un buon centro cefalee e mi rivolgo. Cosa non fare? Non fare mai esami. È l'inizio della fine. Perché si scopre un'ernietta del collo che non serve assolutamente niente e li passano fisioterapie, soldi spesi e tempo perso per il trattamento. Andiamo ad Andrea da Treviso, chiudiamo in bellezza con una domanda curiosa. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno, io ho 36 anni e da qualche anno, se non mi asciugo i capelli perfettamente e se non dormo col berretto almeno 10 mesi l'anno, a parte due estivi che devono essere due mesi caldi, mi sveglio sicuramente con un mal di testa che mi procura vomito e non mi permette di alzarmi. Vedi, cosa vuol dire avere i capelli? Se fosse calvo, professor Barbanti. Questa cosa fino a 3 anni fa suonava come una madornale bufala, invece ha ragione Andrea. Cosa succede? Fili trigeminali passano dalle meningi sforacchiando il cranio sulla superficie del cuoio capelluto. È chiaro che questo succede nei soggetti emicranici, questo cosa. Il fatto che se non asciugano i capelli o prendono un'aria condizionata fa partire l'attacco. Perché? Perché si tratta di fili molto nervosi, molto eccitabili. Attenzione però, Andrea, la cura non è il capello in testa. La cura è rendere questi fili che trapassano il cranio sforacchiandolo fisiologicamente in tutti noi in realtà, renderli meno eccitabili e quindi una buona cura preventiva. E dal ginkgo biloba, la riboflavina, il coenzima Q10, 100.000 tecniche farmacologiche di rilassamento ed altro esistono. Quindi è un invito ad andare da un neurologo per il mal di testa. Professor Barbanti, grazie di cuore per essere stati con noi, per tutte queste informazioni, raccomandazioni, chiarimenti. Ci sentiremo presto. Grazie agli ascoltatori. Arrivederci. Buona giornata. Un paese giusto distribuisce equamente il costo delle prestazioni sociali, come l'asilo nido, la mensa scolastica o l'assistenza agli anziani non autosufficienti, soprattutto nei momenti più duri. Ecco perché abbiamo riformato l'ISEE, l'indicatore che misura la situazione economica delle famiglie. La parola d'ordine, lo avete sentito, era proprio equità. Era circa un anno fa, partiva la campagna per il nuovo ISEE e l'equità veniva presentata proprio come un punto di forza della riforma di questo indicatore. Sono però emerse quasi subito alcune perplessità in merito alle nuove regole per calcolarlo. In particolare, le indennità di accompagnamento erogate ai disabili sono state fatte rientrare nel reddito per il calcolo appunto dello stesso ISEE. Un risultato un po' paradossale è che per le famiglie che hanno un disabile il loro interno, percependo per questo un'indennità, risultano più ricche e quindi non possono accedere ad altri servizi, ad altre prestazioni sociali. La decisione, naturalmente, del governo aveva sollecitato un coro di proteste enorme, purtroppo inascoltato dall'esecutivo, e queste famiglie, con le associazioni che le rappresentano, si sono dovute avventurare in ricorsi su ricorsi dai quali hanno avuto ragione. Il Consiglio di Stato, con ben 3 sentenze depositate nei giorni scorsi, ha confermato quanto in precedenza aveva già deciso il TAR del Lazio, ovvero che con questa modalità di calcolo delle indennità all'interno dell'ISEE non è legittima, questa modalità non è legittima e queste indennità non devono essere considerate reddito. Coerentemente con il percorso anche noi disabili che stiamo facendo con molte trasmissioni, a cominciare da Melo di Gianluca Nicoletti, oggi Cuore Denari prova a ricostruire questa vicenda per capire se si può considerare archiviata o meno, per cui raccontateci un po' qual è stata la vostra esperienza in questo senso. 800 24 00 24, le nuove modalità per il calcolo dell'ISEE hanno portato dei cambiamenti significativi nella gestione del vostro bilancio familiare? Vi siete trovati a pagare alcuni servizi, a pagarli di più? Questo vi è capitato proprio perché percepite un'indennità per una disabilità e questo ha influito sul vostro reddito? Se volete potete anche scriverci al 349-238-6666. Da questo numero riceviamo sia degli sms ordinari oppure anche degli sms attraverso WhatsApp. Buongiorno a Matteo Prioschi del Sole 24 Ore. Buongiorno. Ciao Matteo. E buongiorno a Simone Zucca, responsabile produzione CAF ACLI. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo segnalarvi anche una mail che c'era arrivata da parte del papà di un ragazzo disabile che ci racconta di situazioni assurde. In questi anni ne ho vissute parecchie con la mia famiglia, ma oggi, questa mail è datata 1 marzo, quello che mi ha lasciato veramente amareggiato e anche stranito è che nessuna trasmissione televisiva o radiotelevisiva che ho seguito, e nemmeno Radio 24 e su nessuno dei quotidiani che ho appositamente sfogliato cercando, ho trovato un accenno a questa notizia, la notizia a cui si riferisce appunto questo signore che si chiama Massimiliano e che salutiamo e che peraltro abbiamo anche interpellato nel caso volesse raccontarci questo suo sdegno, ma stamattina per ragioni di lavoro non poteva. Appunto, noi abbiamo naturalmente dato voce a questa mail, ma gli volevamo anche dire che in realtà noi su questo tema ci eravamo arrivati e avevamo già prontamente sollevato la questione appunto del nuovo ISE e che cosa volesse dire appunto calcolare questo parametro per le famiglie con disabilità e la questione appunto dell'indennità di accompagnamento che faceva reddito con tutte le conseguenze, per cui magari a Massimiliano la trasmissione era sfuggita, non per rivendicare alcunché, ma solo per dire che in realtà noi ci eravamo accorti, non avevamo ancora dato lo spazio invece a questa pronuncia del Consiglio di Stato. Matteo, ho fatto un preambolo lunghissimo per far capire la questione che interessa un tot di famiglie in Italia, ma per farla capire un po' a tutti, ma vogliamo fare un po' un riepilogo un po' più preciso di quello che ho fatto io rispetto a quello che è successo da un anno a questa parte? Sì, allora, il nuovo ISEE è entrato in vigore a gennaio dell'anno scorso, il 2015, dopo una gestazione lunghissima, perché per metterlo a punto ci è voluto praticamente un anno tra incontri tra governo, parti sociali, associazioni appunto di disabili e quant'altro. Per cui diciamo che non è stata una decisione presa in fretta e sottovalutata. Subito appunto poi c'è stato questo ricorso in primis al TAR del Lazio con le sentenze che ci sono state a febbraio dell'anno scorso. Quindi appena entrato in vigore, diciamo, l'ISEE per quanto riguarda in particolare i disabili è stato subito dichiarato illegittimo. Esattamente. Il governo si è opposto alla decisione del TAR del Lazio. Esatto, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e la decisione del Consiglio di Stato c'è stata il 29 di febbraio, che sostanzialmente ha ribadito quanto già aveva detto il TAR Lazio. Allora, sostanzialmente cosa è successo? Che appunto per... la riforma dell'ISEE complessivamente aveva un obiettivo, quello di evitare che vessero favoriti persone che in realtà non avevano bisogno, e quindi le misure che sono state introdotte hanno avuto la finalità di andare a scovare anche dei redditi. Anche fotografia un po' più dettagliata dello stato reddituale e patrimoniale appunto delle famiglie, esatto. Proprio soprattutto per quelle che lo vogliono elaborare per chiedere poi determinate prestazioni sociali. Quindi qualche voce magari non rientrava prima in maniera abbastanza precisa. Il governo ha detto facciamo un po' più di dettaglio. Esatto. Sono state inserite anche delle voci di reddito comunque economiche che non sono soggette a tassazione, che quindi prima erano escluse. Ed è stata inserita anche appunto le indennità disabili. Poi per compensare questa cosa sono state previste delle franchigie, in modo appunto che il governo ha detto le mettiamo dentro, però poi le compensiamo con delle franchigie. Allora i ricorsi e le sentenze sono proprio su questo aspetto e sono più da un punto di vista diciamo formale di principio, per cui il TAR Lazio e il Consiglio di Stato hanno detto siccome sono delle indennità non le puoi considerare come reddito, non ci interessa se poi tu metti delle franchigie. Poiché non sono reddito, tu non le puoi considerare come tali e quindi devi riformare quella parte del provvedimento che ha introdotto il nuovo ISEE, che è un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, lo devi riformare e rendere atto di quanto noi abbiamo rilevato. Certo. È una questione abbastanza compressa. Mi chiedo, Matteo, forse anche abbastanza presto ancora per dirlo, secondo te il governo che tipo di provvedimenti prenderà appunto per ottemperare a quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con ben 3 sentenze? Qua ci dovrebbe essere un altro DPCM, perché per modificare un provvedimento di quel tipo ci vuole un provvedimento almeno di pari valore, e quindi ci dovrebbe essere un decreto di presidenza del Consiglio dei Ministri. Impugnarlo ulteriormente è possibile? Se può andare avanti ancora? No, vabbè, ormai la decisione è presa, quindi certo. Bisognerà vedere quali modifiche verranno fatte, poi se non saranno ancora soddisfatti ci sarà un ulteriore appello. Però insomma è una battaglia di civiltà quella che hanno condotto anche l'associazione dei familiari appunto con gravi disabilità, per cui speriamo che almeno il governo su questo si metta una mano sulla coscienza. Detto questo, 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione per le vostre domande, osservazioni, esperienze. Fra un po' devo andare con i mercati finanziari, ma volevo anche sentire per un attimo Simone Zucca, CAF Acli. Da un anno a questa parte, ai vostri sportelli, Zucca, che cosa è successo? Quante famiglie in condizioni di questo tipo, un po' allibite rispetto a questo provvedimento, sono venute a chiedervi consulenza e come le avete gestite? L'anno 2015 è stato un anno abbastanza problematico per il calcolo dell'ISE, perché dal 1998 praticamente facevamo e davamo alle famiglie un ISE che è stato modificato completamente e che quindi ha creato notevoli disagi, sia in termini di tempistiche, perché l'ISE prima nella prima versione veniva dato praticamente con immediatezza, dall'anno scorso servono almeno 10 giorni per avere l'ISE definitivo. E non soltanto, anche in termini di ci sono state problematiche anche in termini di documentazione, perché i documenti richiesti sono sicuramente molti di più rispetto a prima. Quindi per esempio per una famiglia che ha una disabilità al suo interno, dottor Zucca, che cosa significa questo? Che tipo di documentazione si deve produrre per fare il calcolo appunto dell'ISE, che poi serve per tutta una serie di prestazioni, come dicevamo, invalidità, accompagnamento, anche prendere la casa popolare, perché molto spesso si tratta di famiglie che hanno delle condizioni economiche molto precarie, perché magari c'è una o forse a volte anche entrambi i genitori che sono costretti ad abbandonare il lavoro per prendersi cura del congiunto che ha questi problemi, no? Quindi certo, significa che devono fornire tutta una serie di documentazione ulteriore. Abbiamo la fortuna con il nuovo modello che il valore dell'autocertificazione si è ridotto e alcune informazioni vengono messe a disposizione direttamente dall'INPS o dall'Agenzia delle Entrate. Nel caso quindi dei soggetti con dei nuclei familiari con dei disabili all'interno, gli assegni di invalidità piuttosto che le indennità di accompagnamento vengono, è un dato già che voi potete trovare in automatico dall'INPS. Ecco, diciamo, la famiglia non deve incaricarsi anche di andare a reperire questa documentazione che attesti qualcosa che già esiste, per cui esatto. C'è da dire però che bisogna aggiungere altri documenti, che possono essere la giacenza media del conto corrente in banca, che l'anno scorso ha generato non pochi problemi, e il saldo del conto corrente al 31/12 dell'anno precedente, le dichiarazioni dei redditi prodotte nell'anno prima, e quindi bisogna certificare i redditi dei 2 anni precedenti, bisogna certificare le targhe delle autovetture che si posseggono, quindi insomma i dati che bisogna fornire sono sicuramente molto più numerosi rispetto al passato. Allora, sì, Zucca, ci dobbiamo fermare adesso perché devo andare a raccontare ai nostri ascoltatori cosa succede oggi in borsa, poi ritorneremo anche su un altro aspetto che questa questione ha sollevato. C'era la presidente del Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi, Maria Simona Bellini, che è stata fra le promotrici appunto del ricorso di cui abbiamo parlato fino a questo momento, e che proprio qualche giorno fa su un giornale sosteneva questo punto: visto che per un anno e mezzo il governo ha usato un ISEE illecito, le persone ora possono chiedere un risarcimento del danno, invitiamo le famiglie a rifare l'ISEE e a chiedere un risarcimento. Ma è davvero possibile questo? Noi abbiamo qualche dubbio, ma adesso ne parliamo. Intanto 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, e adesso vi racconto la borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. E allora abbiamo un commento di un ascoltatore di Firenze che dice: scusate, ma a me questo nuovo ISEE sembra più equo e giusto, dove i soliti furbetti fanno fatica a vivere di espediente. Adesso, a parte questa seconda parte, effettivamente è così, Marcello. Noi non abbiamo messo in discussione il fatto che il nuovo metodo di calcolo avviato un anno fa voglia darci una fotografia un po' più corretta e dettagliata dei contribuenti italiani che fanno ricorso a questo parametro per chiedere delle prestazioni sociali. Stiamo focalizzando la nostra attenzione stamattina su una platea speciale, che è quella delle famiglie che hanno al loro interno gravi disabilità, che percepivano indennità di accompagnamento, e ai fini appunto dell'elaborazione del nuovo ISEE questa indennità di accompagnamento veniva considerata come un reddito aggiuntivo. Voi ditemi quanto si possano far ricche le famiglie che percepiscono. Peraltro, dottor Zucca del CAF Acli, a quanto mai possono ammontare anche questi assegni, queste indennità? Ce ne sono di diversa natura, nel senso che dipende da qual è il valore ISEE. Ad esempio il bonus bebè, che è stato inserito l'anno scorso, richiede che un nucleo familiare non abbia un ISEE superiore ai 25.000 euro. No, ma io quello che le chiedevo è l'indennità di accompagnamento per una famiglia che ha un disabile in casa. Quanto mai potrà ammontare questo assegno? Dipende dalle cifre, però sicuramente non sono importi sostanziali. Che rendono proprio particolarmente ricchi e che servono invece per gestire la difficilissima quotidianità di queste famiglie. 800 24 00 24, adesso sentiremo i nostri ascoltatori. Sono pronti Oreste da Piacenza, Eugenio da Verona, ma Matteo, abbiamo sollevato la questione di chi addirittura rivendica un possibile risarcimento per questo torto che è stato loro fatto in questo anno. Secondo te è plausibile una richiesta di questo tipo? Imbarcarsi in un'ennesima adesso battaglia contro il governo per... quale sarebbe anche il maltolto di questo anno? Sì, insomma, la questione è un po' complessa. Allora, intanto c'è da dire che il ministro, dopo la sentenza, il ministro del lavoro Poletti ha dichiarato che non saranno previsti dei risarcimenti per quello che è successo finora, e peraltro anche nei prossimi mesi, nel senso fino a quando andrà in vigore la versione modificata dell'ISEE, potrebbero volerci ulteriori mesi. L'altra cosa, peraltro, uno dovrebbe dimostrare di aver subito un danno da questo ISEE rispetto a quello vecchio, piuttosto che a quello che sarà, cioè inizia a diventare complesso cercare di dimostrare dove hai ricevuto il danno. La terza cosa è che sempre il ministero, qua uno si deve fidare, siccome ogni tre mesi fa un report, il ministero sostiene che col nuovo ISEE, in buona sostanza, soprattutto per le famiglie che avevano un indicatore già basso, con il nuovo indicatore si è abbassato ulteriormente. Cioè il concetto è che chi era, diciamo, povero risulta ancora più povero, mentre se è alzato quello della fascia alta. Quindi si è andati a premiare chi effettivamente ha più ha bisogno. E questo anche per i disabili. Allora, se i dati del ministero sono corretti, poi il singolo, se lui ritiene che invece conti alla mano, può dimostrare di aver subito un danno, a quel punto deve fare un'azione però personale davanti al giudice e imbarcarsi in un... Il danno che può aver subito qual è? Per esempio aver perso il diritto a partecipare ad una graduatoria per una casa popolare? Sì, perché cioè il danno che puoi avere è appunto che il tuo ISEE calcolato con il nuovo sistema era più alto e ti ha escluso da una serie di benefici previsti dal comune piuttosto che dalla regione e così via. Zucca, voi come CAF Acli avete pensato se sarà il caso anche indirettamente di sostenere una battaglia di questo tipo per potenziali risarcimenti, oppure ritiene che non valga la pena avventurarsi anche in ulteriori ricorsi che portino a questo risultato? Ah, guardi, noi di fatto ci atteniamo a quanto stabilito dalla normativa, quindi in questo caso siamo a disposizione. Le dico che abbiamo recepito la sentenza del Consiglio di Stato, ma attualmente non abbiamo modificato il nostro modo di operare, perché come dicevo in precedenza, di fatto, a parte che stiamo aspettando questo decreto del governo, le indennità di accompagnamento vengono comunque già individuate e segnalate dall'INPS o dall'ente erogatore. Per questo motivo, comunque, nel momento in cui noi stiamo erogando il servizio ISEE finiscono ancora dentro questa indennità. Certo. Speriamo che la cosa si risolva, ma perché in questo modo avremo più chiaro come agire. Speriamo di aver fatto anche stamattina un lavoro utile sollevando il problema, appunto, e quindi spingendo un po' il governo o chi per lui a prendere atto della situazione, a muoversi con questo provvedimento che recepisca quanto ha stabilito il Consiglio di Stato. Intanto andiamo un po' a sentire i problemi con cui combattono i nostri ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde che conoscete bene. Oreste da Piacenza, benvenuto, ben trovato. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Allora, brevemente in 30 secondi, tre cose. Io parlo di una persona anziana, parente, quasi 90 anni, con una gravissima patologia. Le entrate di questa persona sono la pensione di 600 più un accompagnamento di 500 euro. Questa persona ha sempre avuto un ISEE di 8-9 mila euro calcolato. Quest'anno, dovendo metterci dentro i 500 di accompagnamento, sì, è praticamente raddoppiato il suo reddito annuale quasi. Cioè... Le dico la cifra perché ho in mano il foglio dell'ISEE, dell'ultimo ISEE. Quindi, avendo messo dentro i 500, la prima casa sta un appartamento piccolo in un condominio, quindi non è... Allora, questa persona è schizzata a 15.400 euro. Le spiego il secondo punto. Siccome la conseguenza qual è stata, Oreste, appunto? La conseguenza qual è stata per voi? È questa. La regione Emilia-Romagna, per chi... Allora, questa persona ha una badante tutta in busta paga regolare, certo, sì. Circa 1.100 euro al mese, una badante. Allora, siccome la regione Emilia-Romagna dava un contributo per pagare la badante basato sull'ISEE, naturalmente la regione Emilia-Romagna vi avrà detto adesso dobbiamo riguardare. Dall'assistente sociale mi dice... Guardi, 15.400, il limite della regione 15.000. Ecco. Vediamo come. Allora, questa persona prende sempre gli stessi soldi. Grazie Oreste, abbiamo capito perfettamente. Guardi, non c'è bisogno che aggiunga altro con Simone Zucca. Un caso emblematico proprio del tema che stiamo affrontando stamattina. Non parliamo di una disabilità, però novantenne non più autosufficiente. Penso che il caso del signor Oreste abbia proprio centrato il problema, nel senso che abbiamo detto l'anno scorso è entrato in vigore questo nuovo strumento, ma di fatto è uno strumento completamente diverso rispetto a quello in vigore fino all'anno prima. Quindi vuol dire che i 15.000 euro ISEE di quest'anno non sono gli stessi 15.000 di quelli di 2 anni fa. Sarebbe buona cosa se nel caso specifico la regione Emilia-Romagna avesse adeguato appunto la scala di merito, certo, per poter accedere a questi Le regioni servizi. Hanno questa autonomia per poterlo fare? Beh, tutti gli enti erogatori di fatto decidono quali sono i parametri per poter accedere ai servizi sociali, insomma, e quindi ci sono alcuni parametri che non possono stabilire le regioni o gli enti locali, penso ad esempio al bonus energia, al bonus gas, sì. Altri invece dove è come il servizio mensa o come il contributo per la badante, esatto, quelli possono essere sicuramente stabiliti dal singolo comune o dal singolo ente che eroga. Quindi regione Emilia Romagna, magari insomma anche lei veda un po', alzi un po' questi tetti, Matteo, che sì. Ti dice questo caso? Sì, no, questo è una cosa che abbiamo evidenziato anche noi sul Sole 24 Ore, cioè il fatto che appunto soprattutto nei primi mesi del 2015 molti enti locali non si erano adeguati, cioè il concetto del nuovo ISEE è noi facciamo una fotografia più realistica, ma appunto che in alcuni casi porta anche a aumentare il valore di reddito equivalente, no? Sì. delle persone che poi chiedono l'assistenza. Quindi tu ente locale devi tenere presente questo, per cui se tu che poi alla fine decidi se mantenere le stesse soglie e quindi escludi molte più persone, oppure tenendo conto che la fotografia è più realistica, ma anche fa sembrare, diciamo così, le persone più ricche, allora devi alzare le soglie. E soprattutto l'anno scorso molti enti locali questa operazione non l'hanno fatta. Quindi poi si dà tutta la colpa all'ISEE quando magari appunto c'è una, diciamo, partecipazione di responsabilità, esatto, tra il nuovo strumento e chi doveva recepirlo ed adeguarsi di... Allora, insomma, bisogna fare le cose un pochino in fretta perché qua ci stanno andando di mezzo veramente un po' troppe famiglie. 800 24 00, ma è tardissimo, devo andare al traffico. Andiamo allora. Cuore e denari. Ultima parte di Cuore e Denari, stiamo parlando questa mattina delle indennità di accompagnamento che percepiscono le famiglie che hanno gravi disabilità al loro interno, sulla base di quanto aveva stabilito il governo l'anno scorso, nel nuovo ISEE entrava anche facendo reddito questa indennità di accompagnamento, una grandissima battaglia delle associazioni dei familiari con gravi disabili, un ricorso, prima un pronunciamento del TAR del Lazio e poi il Consiglio di Stato, che ha dato ragione appunto al TAR del Lazio, e il governo non può fare sostanzialmente più nulla, deve adesso come dire accontentare queste famiglie che non possono parlare appunto di reddito complessivo se anche percepiscono un'indennità. Adesso mi sono un po' incartata, ma insomma l'abbiamo spiegata bene all'inizio la nostra trasmissione, appunto la tematica. Allora, ero anche un po' distratta dalle telefonate che stanno arrivando dai nostri ascoltatori e volevo sentire Eugenio da Verona, che saluti. Eugenio, benvenuto. Grazie, buongiorno. Ecco, io ho due figli disabili autistici, uno dei quali è in residenza protetta, cioè io ho 72 anni, abbiamo iniziato il dopo di noi nel durante. Quindi per quanto riguarda la residenzialità delle persone disabili, il ISEE è calcolato sulla persona che fruisce del servizio, cioè su mio figlio. In effetti lui ha un ISEE, le dico anche il valore, 2738, per cui lui dovrebbe compartecipare alla spesa per il valore di ISEE. Però di fatto USL e Comune fanno dei regolamenti loro personali dove chiedono di prima di asciugare tutto il proprio conto corrente e poi casomai loro intervengono a coprire la restante cifra. Allora io questo non lo trovo regolare, non lo trovo nemmeno dal punto di vista etico corretto, perché il governo legifera e mette dei valori che sono quelli e poi dopo di fatto vengono cambiati, certo. Quindi mi sono rivolto a un legale e sto portando avanti la pratica per vie legali, cioè se la legge dice che uno deve compartecipare per il proprio valore di sé, non vedo perché loro devono dire partecipi con tutti i proventi che tu hai sul tuo conto corrente, certo, che abbiamo noi costruito come genitori per lasciargli un qualcosa dopo, e quindi dopo non gli lasciamo niente. Eugenio, grazie. Simone Zucca, che cos'è la questione della compartecipazione? Ce la può spiegare lei in termini semplici? Sì. Di fatto l'ISE cerca di misurare proprio la ricchezza di un nucleo familiare, quindi prende in considerazione non soltanto la parte reddituale ma anche la parte patrimoniale, dove per parte patrimoniale appunto si intendono anche i conti correnti e tutte le giacenze in banca che un nucleo familiare ha. Quindi sicuramente bisogna prendere in considerazione nel momento in cui si cerca di valorizzare la ricchezza di un nucleo familiare sia tutti i redditi che il patrimonio, quindi questi soldi che giacciono in banca. La somma delle due cose per un algoritmo e con delle divisioni su alcuni parametri che vengono individuati poi dà il valore ISEE. Bruna dalla provincia di Bergamo invece che cosa ci racconta? Buongiorno Bruna. Allora, prima cosa, l'indennità di accompagnamento ammonta a 486 euro al mese. Per lei, sì. Che cosa è successo? Mio marito, che è 82 anni, affetto da sclerosi multipla, allettato, alimentato con la PEG, con un declino cognitivo grave, e la regione Lombardia contribuisce mensilmente per 800 euro al mese per i familiari che sono accuditi a domicilio, uh-huh, anziché portarli nelle residenze per anziani. I caregiver, sì. Ecco. Il mio ISEE nel 2014 era di 10.900 euro, con le nuove norme nel 2015 avevo un ISEE di 19.000 euro. Mm-hmm. A fronte di questo, il contributo anziché essere di 800 euro mensili, io ho preso nel 2015 dalla Regione Lombardia 2.237 euro. Certo, quindi, una bella differenza. Ecco, e la situazione economica non è cambiata, anzi è peggiorata. E evidentemente non percependo più questo denaro ogni mese. Bruna, grazie. L'ennesima testimonianza che insomma conforta un po' tutta anche questa battaglia radiofonica che stiamo facendo questa mattina. Matteo, allora che cosa potrà cambiare ragionevolmente per queste famiglie? Al momento non sappiamo che cosa, visto che aspettiamo il DPCM, come l'ha chiamato tu, il decreto del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si dovrà attendere appunto le modifiche che verranno fatte dal governo. Appunto, poi non è detto che la situazione cambi sostanzialmente, nel senso, perché il Consiglio di Stato ha fatto un rilievo di merito, cioè appunto sul fatto che le indennità non devono essere considerate redditi e il meccanismo messo a punto non è corretto a livello legale. Bisognerà vedere appunto come si orienterà il governo, perché potrebbe anche modificare appunto il meccanismo scorporando di nuovo le indennità di accompagnamento, ma poi prevedendo dei sistemi di compensazione per cui alla fine l'effetto potrebbe essere sempre lo stesso, cioè che le ISEE comunque non si abbasserà, perché se l'obiettivo del governo era stato questo, potrebbe essere riconfermato modificando le norme. È tutto da verificare. Vigileremo attentamente, semmai ci torneremo di nuovo dando voce appunto a queste persone, a queste famiglie in gravissima difficoltà. Grazie a Matteo Prioschi, buona giornata. Grazie, buona giornata. Grazie Simone Zucca del Cafacli, buona giornata e buon lavoro anche a voi attraverso i vostri sportelli. Noi torniamo domani, certamente, sempre alle 10:30. Buona giornata. Buona giornata a tutti, a domani.